Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oggi facciamo il gioco dei pronostici perché mancano 4 giorni al via del mondiale. Debutto giovedì Brasile-Croazia ore 22, mancano poco più di 5 giorni al nostro debutto, quello contro l'Inghilterra. E allora oggi 800 24 00 24 per telefonare, per darci in diretta il vostro pronostico sul mondiale, un mondiale che praticamente è alle porte. Oggi sono arrivate in Brasile le ultime nazionali, la Germania, che è la mia personalissima favorita, è arrivata l'Inghilterra di Hodgson, è arrivato, abbiamo visto, anche il Giappone di Zaccheroni, non è arrivato il Camerun, ve l'abbiamo raccontato nel notiziario. Ogni 4 anni c'è questa storia, c'è una nazionale africana che litiga con la propria federazione per la questione dei premi, fino all'ultimo minaccia lo sciopero, poi si presenta. Il Camerun deve presentarsi entro venerdì alle ore 18, perché ci sarà Camerun-Messico, è il debutto del Camerun in questo mondiale. Camerun che in questo momento è rimasto in patria, chiuso in un albergo, aspetta i soldi tutti subito e anche in contanti, da quello che si legge sui siti del paese. Intanto oggi noi facciamo i nostri pronostici, 800 24 00 24, poi vi do la mia griglia delle 4 favorite. Aspettiamo anche il verdetto dell'ultima amichevole dell'Italia, un'amichevole spesso maledetta nella storia della nostra nazionale. Giochiamo alle 22:30 questa sera contro il Fluminense, che è un test impegnativo, più impegnativo ad esempio della partita con l'Under 19 del Duisburg, che ci portò al mondiale del 2006 in Germania, o il Kashima Antlers di Giappone e Corea nel 2002, o altri che vi abbiamo anche ricordato in questa lunga settimana. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Ad esempio il Deportivo Italiano di Argentina 78, sì. O lo Sporting Braga dell'82, di cui abbiamo parlato con Ciccio Graziani. Oggi è una squadretta, insomma, non va neanche presa sotto gamba per quanto conta questo Fluminense. Ma guarda, tanto l'importante è che l'Italia giochi per se stessa, cioè poi il risultato sappiamo conta per evitare magari qualche polemica in più o in meno, ma conta che l'Italia si guardi allo specchio e trovi una faccia che adesso per il momento non ha. Mi sembra che Prandelli stesso lo abbia detto, l'abbia ammesso, questo è il risvolto più preoccupante. Io continuo ad essere ottimista, a me la soluzione, più ci penso, più la soluzione dei tanti palleggiatori mi piace, anche perché in condizioni climatiche quali saranno quelle brasiliane, conterà far correre la palla, conterà avere un talento più di buoni a centrocampo, cosa che consente anche di risparmiare energie. Oggi è uno scrimmage che sarà importante proprio per le risultanze che darà a Prandelli, perché io credo che riproporrà questo tipo di squadra, questo tipo di idea, speriamo che funzioni. Ripeto, la cosa più preoccupante non sono tanto gli interpreti quanto lo spartito, che al momento mi sembra un po' confuso. Sì, sulla tenuta oggi dell'Italia in questa amichevole, ripeto, questa sera ore 22:30 con il Fluminense, crede poco anche Prandelli, te lo faccio sentire qualche ora fa in Brasile, proprio a proposito di quello che dobbiamo aspettarci o meno questa sera. Abbiamo programmato questa partita proprio perché sono 6 giorni prima della gara ufficiale, avevamo necessità di avere subito un impatto con il paese, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, con Haiti non abbiamo fatto una bella figura, sicuramente anche fra 2 giorni non faremo una bella figura, ve lo dico adesso, non è che metto le mani avanti, fuso orario, però abbiamo bisogno di questo shock, sì, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno, perché e poi nelle difficoltà io sono convinto che vedi ancora di più magari dove migliorare la squadra. Abbiamo bisogno di questo shock, sta diventando quasi una situazione scaramantica quella della nostra nazionale, che ha assolutamente bisogno di qualche brutta figura prima di debuttare. Ma sì Giovanni, ormai insomma qualche anno ce l'abbiamo, qualche mondiale, qualche europeo l'abbiamo vissuto, hai ragione. sembra quasi che si cerchino i problemi per scaramanzia. Secondo me siamo anche un po' troppo prigionieri di questo ruolo. E Messico 70, Argentina 78 e Spagna 82. Cioè tutte le volte abbiamo bisogno di arrivare lì con un sacco di ansia, di angoscia, di pressione e tutte queste cose, va bene, viviamo ancora una volta. Io un po' invidio i paesi che riescono a vivere un po' più serenamente, i brasiliani su tutti, loro se ne fregano abbastanza, no? Non hanno problemi con la bichevoli, se ne fregano abbastanza. Poi questa settimana hanno fischiato comunque la nazionale brasiliana, perché contro la Serbia non è arrivato il gioco che volevano, che speravano. È arrivata la vittoria, cosa che a noi manca oramai da 9 mesi, ma ai tifosi brasiliani non è piaciuto lo stesso. Scrive un amico 349-238-6666, perché oltre a telefonare 800-24-0024 potete anche mandarci gli sms per i vostri pronostici. Scrive Sebastiano: la mia favorita è l'Inghilterra, poi Argentina, Brasile e Germania. Ora è sempre però forza azzurri, forza Giappone. Oggi abbiamo visto, poi ve lo faremo anche sentire, Zaccheroni che è sbarcato con il suo Giappone in Brasile. Mi dai il tuo pronostico? Il mio pronostico sul mondiale? Ma io come te dico Germania, perché mi sembra una squadra che è al punto di maturazione perfetto per questo grande risultato. È una squadra che ha un percorso, che ha fatto un percorso, mondiali 2006, poi europeo, eccetera. Quindi è una squadra che ha fatto un percorso che in questo momento mi sembra arrivata. È la più forte, dai, è la più forte in questo momento. Miro close, cioè noi stiamo lì a tanto a menarcela sulla questione delle punte, loro giocano con l'antico Miro Klose davanti, dietro di lui c'è pochissimo, in compenso hanno una banda di mezze punte e trequartisti da fare impressione. Anche se si è fatto male Royce. Io ti dico Germania, la finalista sarà l'Argentina e poi Brasile e Belgio che si giocano la finalina, perché il Brasile questo mondiale, anche se costruito su misura per farglielo vincere, questo mondiale secondo me il Brasile non lo vince. 800-24-0024, mi interessa però sapere anche che cosa ne pensate. C'è già Paolo da Monza, ci fermiamo però prima, c'è il traffico. Convocati. Come andiamo a giocare noi in questo mondiale? Se con i 5 centrocampisti, con i 4 centrocampisti, con una sola punta, con due punte, con il falso 9, come ti pare? Però non ho capito come partiamo. Se tu hai già deciso, volevo sapere questo. Questo è già un buon segno. Se non l'hai capito, vuol dire che stiamo sulla strada giusta. Andiamo con il 5-5-5, con la bizona, non lo so. Oggi intanto dovremmo vedere due nazionali contro il Fluminense, prima l'Italia B e poi invece nel secondo tempo o nell'ultima mezz'ora la vera e propria prova tattica in vista della gara con l'Inghilterra di sabato prossimo. 800-24-0024, noi siamo qui, raccogliamo con Giorgio De Luca i vostri pronostici, poi magari riparliamo il 13 luglio, vediamo se qualcuno questo pronostico l'ha centrato. Il mio, lo ripeto, Germania che vince il mondiale, Argentina finalista, poi Brasile e Belgio. Paolo da Monza, Paolo. Buongiorno. Prego. Giovanni, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Prego Paolo. E lei, siamo quasi d'accordo Giovanni, soltanto che io dico che vince l'Argentina e non so chi arrivi in finale con lei, perché secondo me la difesa dell'Argentina come difetti è superiore ai difetti dell'attacco dei tedeschi. E quindi vince l'Argentina, che secondo me però ha il problema di avere una difesa, Carlo, che non è all'altezza di tutto quello che c'è dalla metà campo in su. No, se Dio vince l'Argentina, che nel cuore mi sta, quindi io non la pronostico. Se penso che ci gioca da titolare Fernandez, che faceva la panchina del Napoli, sì. qualche domanda secondo me si può fare. Dietro l'Argentina è messa male, insomma è una squadra piena di difetti dietro, una squadra legata alle lune di Messi, che fino adesso nelle grandi competizioni ha sempre deluso. Non c'è una squadra senza difetti in questo mondiale. Ovviamente anche lo stesso Brasile mi sembra una grande stella come Neymar, tutto il resto sono giocatori più o meno normali per quegli standard. L'Argentina ha i suoi problemi dietro, adesso ha recuperato De Michelis, che è un antico difensore che può fare il suo, però certamente dietro non è messa bene. Ha un attacco da far paura, in teoria ha un attacco da far paura, un centrocampo che ha Di Maria, che è stato uno dei migliori giocatori della stagione. Sì, un buon centrocampo, e poi scendendo fino al portiere, anche il portiere ampiamente rivedibile, Romero, credo, e noi che abbiamo seguito la Serie A lo sappiamo, piano piano che arretra verso la propria porta l'Argentina perde punti. Andiamo in Brasile, non so dove, Dario Ricci, Dario, ciao. Dove sei? Ben trovati ragazzi, vi saluto dal Maracanã. Maracanã. Per cominciare alla grande, sono nella pancia del Maracanã. Oggi l'abbiamo presa larga per andare a questa volta redonda che sarà la sede di quest'ultima sgambata azzurra contro il Fluminense, perché prima si è passati per il Maracanã per espletare le pratiche burocratiche del caso, e poi adesso tra poco ci si muove alla volta della volta, appunto, insomma, in direzione di Volta Redonda per vedere questa amichevole che banale non sarà, perché comunque il Fluminense vuol far bene, e Prandelli già ha detto che non parlerà dopo la partita, segno che comunque a questo test non vuol dare giustamente un'importanza eccessiva. Ma comunque sono altri 90 minuti per mettere alla prova questa nuova Italia che sta nascendo e che ha ormai giorni, e il calendario che macina giorni inesorabilmente verso l'esordio di Manaus. Sì, ricordiamo sabato a mezzanotte italiana, tra sabato e domenica. Ci dai qualche informazione ambientale? Perché abbiamo letto con raccapriccio che voi inviati avete scoperto che fa proprio caldo in Brasile, che c'è l'afa, che si fatica, si suda. Si suda in Brasile, anche oggi è giornata molto calda qui a Rio de Janeiro. Ti dico pure che c'è stato anche l'episodio minimo, che però dà un po' l'idea dell'atmosfera, no? Proprio siamo arrivati oggi con buona parte dei giornalisti al seguito della Nazionale Azzurra a ritirare l'accredito stampa, che di solito è un po', sai, salvacondotto papale, insomma, no? Segna anche l'ingresso ufficiale in una grande manifestazione. Beh, uscendo dal centro dei crediti proprio qua del Maracanã, siamo stati bloccati da una trentina di giovani manifestanti che hanno cominciato a urlare qualche minaccia, a bloccare l'uscita, insomma, niente di grave. Siamo poi riusciti a sgattaiolare con l'aiuto degli inservienti da un'uscita secondaria e a riprendere le nostre cose, però, insomma, un piccolo episodio che dà l'idea che... Sì, poi stiamo leggendo delle code pazzesche, soprattutto a San Paolo, poi Carlo stiamo leggendo anche di questo ritiro dorato a Mangaratiba dell'Italia, al di là dei costi, non hai l'impressione che rischi di perdere un po' di cattiveria agonistica, una squadra che fa di fatto 2 settimane di vacanze di lavoro, ovviamente, però da quello che abbiamo letto in un clima assolutamente paradisiaco. Carlo. Vabbè, ma per tutti, Giovanni, ma per tutti così, no? Abbiamo no, in tanti hanno scelto anche delle soluzioni. Ma che stiano comodi, diverse. Non me ne importa moltissimo. No. Cioè, secondo me la location va bene, nel senso che nel ritiro del Portogallo ci sono i cuscini profumati e Cristiano Ronaldo allo specchio. Noi abbiamo il plasma 46 pollici portate con una nave container dall'Italia. Sì, ma non è un problema, non credo che sia un problema di nessun tipo, insomma, al di là di un sacco di demagogia che si può fare, devono stare nella pensione a una stella, non ha senso. Secondo me, alla fine conta il campo, è ovvio che anche questo diventerà un argomento di discussione nel momento in cui si fallirà, diventerà qualcosa di astuto se l'Italia dovesse andare bene. Non darei tanto peso a questo. E per quanto riguarda il clima sociale e politico che c'è in Brasile, anche su quello non, insomma, se c'è qualcosa da dire, le grandi competizioni internazionali possono anche essere palcoscenico per delle proteste, per delle civili proteste, per porre l'attenzione su determinati problemi. Dunque, se c'è qualcosa da dire, non è il caso di demonizzare. Fatevi avanti, poi abbiamo l'esperienza di un anno fa con la Confederation, e quindi ho l'impressione che anche polizia ed esercito si faranno trovare meno impreparate rispetto a quanto accaduto un'estate fa. Carlo, ti saluto dandoti i pronostici di Stefano di Dario da Pescara, che dice che non sottovaluta la Russia. Poi c'è un amico che chiede perché non inseriamo la Spagna tra le prime quattro, che pure dovrebbe essere tra le più quotate. Poi c'è chi darebbe una chance all'Uruguay. Questi sono i pronostici. 349-238-6666 se volete scriverli, oppure chiamate in diretta 800-24-0024. Pronostico mio e di Carlo Genta: vince la Germania. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. A domani dopo il GR delle 14. Torniamo a Rio de Janeiro, Maracanã. Dario, hai capito esattamente cosa dobbiamo aspettarci? Cosa si aspetta? Anche voi cosa vi aspettate? Voi che state seguendo l'Italia dall'amichevole di questa sera. Ma devo dirti che la prima cosa da salutare di questa amichevole è che rivediamo un po' la gente, perché se c'è, e credo che anche agli azzurri faccia bene comunque, perché sono attesi circa tra i 16 e 18 mila spettatori, e dopo questi giorni di ritiro a Maracanã, ma manca la tipa, devo dire che più che l'idea di stare in un paradiso, sia l'idea di trovarsi in un ambiente abbastanza straniante, un Brasile abbastanza ignoto anche agli stessi brasiliani, no? Come giustamente diceva Carlo, se tutto andrà bene sarà una genialata, se invece falliremo sarà la prima cosa che si imputerà a Prandelli, anche perché, te lo dico francamente, secondo me Manaus è l'inizio e la fine del nostro mondiale, nel senso che è una partita che è alla finale per noi, perché le altre due giocate alle 13 a Natale, sì, a Natale, non so se possono, se potranno essere chiamate calcio. Mettere subito nel carniere quei tre punti contro l'Inghilterra in un girone in cui molto probabilmente per passare dovremmo farne almeno 7 è fondamentale, quindi quella è già la finale della Coppa del Mondo per noi. Detto questo, tornano utili anche questi 90 minuti col Fluminense, perché è un'Italia che sta nascendo, non tutto il gruppo è convinto che la scelta di Prandelli sia buona, ieri le parole di un pretoriano come Chiellini hanno fatto riflettere, perché c'è un po' di perplessità, no? Soprattutto sulla fase difensiva. Ciro da Roma, 800-24-0024. Ciro. Grazie mille, buonasera e complimenti. Prego. Devo dire che mi sto riavvicinando al calcio dopo anni di abbandono e grazie a voi comincio a capire qualcosa in più. Volevo dare un mio... Siamo messi malissimo, Ciro. Pronto, mi sente meglio? Sì, siamo messi malissimo, dico Ciro. Prego. Allora, io sono convinto che ci sarà una finale europea, perché non mi piacciono molto queste squadre sudamericane che ho tanto amato nel passato, non mi convince l'Argentina per i motivi che avete detto e non mi convince nemmeno tanto il Brasile, lo vedo una squadra fragile a dire il vero. Sì, io ho letto un interessantissimo Lippi questa settimana che parla di una squadra troppo giovane per reggere la pressione di un mondiale così atteso in casa, tra l'altro Dario, volevo capire anche se in realtà è davvero così atteso il Brasile in questo mondiale, o se poi tanti in questi mesi hanno detto che alla fine la gente non l'avrebbe tifata anche per le contraddizioni economiche, per tutti i problemi insomma di cui abbiamo letto e che sicuramente leggeremo, in qualche modo ci sia una forma di distacco. Beh, guarda, allora ti preannuncio che sarà l'argomento questo domenica prossima dell'apporto campo diario mondiale, però ti do anche qualche anticipazione per non farti aspettare una settimana, nel senso che sono due percorsi paralleli. Che cosa succede? La gente protesta, scende in piazza, però c'è anche il richiamo magico della Seleção. Quando si accende il televisore, e l'altra sera c'era Brasile-Serbia, l'ultima amichevole, quando si accende il televisore, da quel televisore spunta fuori maglia verde oro. Sì, tutti si dimenticano gli occhi, dei problemi. Gli occhi, non è che si dimenticano, ma gli occhi rimangono incantati, sospendono la credulità, no? Come si dice. E quindi è una mescolanza, è una situazione così particolare, si mescolano questi sentimenti e convivono nella piazza, anche se poi c'è anche chi invece col calcio ha rotto ormai, no? Perché lo vede come un po' la grande bugia che viene raccontata alla gente, però quella maglia ha ancora questo fascino, ha ancora questa forza irresistibile, e quindi sono due percorsi paralleli che viaggiano anche su tempi diversi. Non è detto che la vittoria o meno nella Coppa abbia poi influenza su queste proteste o addirittura sulle elezioni presidenziali che poi ci saranno tra 3-4 mesi, insomma. Sì, nelle quali peserà comunque anche come sarà andata questa Coppa del Mondo. Sei lì con qualche collega, Dario? Ah, guarda, c'è Leo Turrini qua che oggi è inviato del quotidiano nazionale, amico di Radio 24, e allora gli rubiamo un minuto che sta scrivendo due pezzi, quindi Leo ti rubiamo veramente. No, sciocchezze. Tra l'altro cosa sono due pezzi di fronte alla possibilità di intervenire a tutti i convocati per Leo Turrini? Infatti la possibilità di entrare in onda su Radio 24 val bene sacrificare qualche minuto. Senti Leo, oggi ti perdi pure la Formula 1, però è causa mondiale, lavori in corso, qualche rimpianto. No, visto come sta andando la Ferrari, francamente non è che ci sia da provare troppa nostalgia, però visto che voi siete una radio all news, vi do una notizia: Andrea Newey ha rinnovato il contratto con la Red Bull su basi pluriennali, quindi il sogno di portare il progettista Bibitaro a Maranello è definitivamente svanito. Quindi quando lo rivinciamo il mondiale? Speriamo fra un mese con Balotelli, perché adesso ci dobbiamo concentrare su questo mondiale. Ma io credo che qui in Brasile, hai detto prima bene tu, stiamo toccando con mano, vedendo da vicino le consuete contraddizioni di un paese immenso, no? Passiamo dall'ostentazione del lusso, ad esempio in quest'area del Maracanã dove ci troviamo ora, alle favelas, eccetera, eccetera, eccetera. Io non vedo ancora proprio tra i brasiliani, voglio essere sincero, un entusiasmo straripante per l'evento. Anche perché sì, non gliene frega niente in questo momento. Ecco, noi siamo, come dire, per scelta, eh? È una sobria scelta di Pandelli, siamo isolati, non dal resto del mondo, ma dal resto del Brasile, e però aspettiamo di emozionarci vedendo i nostri autori. Però ti stavo dicendo, in generale io ho la sensazione che ancora il paese ospitante non si sia acceso per l'evento. Forse è anche un buon segno, perché significa che i brasiliani, sai, che sono sempre stati l'incarnazione, il pallone moderno, oppio dei popoli, Panemer, Circense, eccetera, stanno veramente cambiando come cultura, e questo non è male. Senti, d'accordo sul fatto che Manaus è per noi già la finale della Coppa del Mondo contro l'Inghilterra? Beh, allora è chiaro che noi abbiamo un girone sulla carta non semplice, quella con l'Inghilterra è una partita, come dite voi che avete studiato, do it or die, no? Insomma, vincere o morire, o quali, anche se poi tante volte si fanno questi ragionamenti, alla fine si chiude con un orrendo 0-0 e ci si qualifica per differenza rete. Sì, peccato che la prossima, quella dopo, poi è con l'Uruguay, che rende probabilmente difficile il giochino del pareggio nella prima giornata, che pure spesso è stata una delle chiavi di lettura dei gironi, quelli un po' più complicati nella storia dei mondiali. Non lo so se questa volta il giochino potrà riuscire sia ad Italia che Inghilterra, quindi se ci sia la convenienza a farlo. Dario, ti saluto anche Leo Turrini, buona serata italiana, buona partita, poi ci sentiamo, alla prossima, ciao Dario. Torniamo subito. Questa mania di twittare. Convocati. Allora, qualche altro pronostico è arrivato al 349-238-6666, la sorpresa sarà la Francia, Giampaolo D'Asti, poi l'attacco dell'Argentina alla difesa del Brasile, ecco quale sarebbe la squadra favorita, Lorenzo, poi Guido che dice vince la Spagna sul Brasile, terza la Germania, quarta l'Argentina, Italia disastro perché perde le prime due partite, e poi Francesco che ci chiede perché dimentichiamo l'Olanda, perché poi alla fine se fai il pronostico tu devi dire 2, 3, 4 squadre al massimo. E allora io vi ripeto il mio pronostico: il mondiale lo vince la Germania in finale sull'Argentina, e le due semifinaliste sono Brasile e Belgio, che sarà la vera rivelazione di questo mondiale. 800 24 00 24, chiamateci, dite il vostro pronostico oppure quello che volete, anche aspettando Italia Fluminense di questa sera ore 22:30 italiane. Roberto da Milano. Roberto, buon pomeriggio. Pronto, prego. Guarda, buongiorno. Io anch'io sono d'accordo che sarà una finale europea, sarebbe Italia e Germania, mi auguro sempre che vada bene tra l'Italia, però Italia e Germania, e poi anch'io sono d'accordo, una rivelazione potrebbe essere anche il Belgio. Sì, Belgio squadra straordinaria, giovanissima ma straordinaria come talenti, anche se poi ieri ha perso Lukaku per infortunio, non dovrebbe essere a rischio la sua partecipazione al mondiale, però c'è un po' di preoccupazione, però sicuramente il Belgio è una squadra che in questo mondiale impareremo ad apprezzare. Giuseppe da Cagliari, Giuseppe. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Dunque, io invece, contrariamente al compito precedente, prevedo vincitore netto il Brasile, la Germania, contrariamente a quello che dice lei, non arriverà nemmeno tra i primi quattro. Neanche in semifinale. Perché è parecchio scarsa. Io la seguo direttamente, anche l'ultima vittoria 3-1, fino al 60esimo ha sudato 7.000 camicie. Poi sì, si vede anche il Bayern Monaco è particolarmente scarso, che poi Bayern Monaco è, è l'ossatura di questa nazionale, come squadra. No, i fuoriclasse del Bayern Monaco non sono tedeschi, per cui non c'entrano niente. E quindi... poi vedremo. No, assolutamente, legittimo. Noi segniamo tutto, 13 luglio, domenica 13 luglio saremo in onda e quindi poi vi chiediamo conto dei vostri pronostici. Quindi vince il Brasile, Giuseppe. Sì. Germania neanche tra le semifinaliste. Grazie Giuseppe, sei d'accordo Daniele Adani? Ciao Lele. Ciao. Ma in senso, mi è sembrato un po' forte come pronostico dire che la Germania è scarsa, però sono d'accordo sul fatto che il Brasile sia la prima favorita. Io credo che il nemico principale del Brasile sia se stesso, perché gioca contro una pressione incredibile, spinto da una nazione che non lo può vedere secondo ma lo vede solo primo, e questo, insomma, quando ti devi comunque confrontare con squadre come Germania, Argentina, diventa difficile, Spagna. Però io credo che il Brasile resta la favorita. Sì, mi sembra una squadra a metà. Facevamo anche prima il discorso ragionando sull'Argentina, fortissima in attacco e via via più debole, arretrando verso la propria porta. Anche questo Brasile non mi sembra una squadra completa. Mi sembra che, ad esempio, la Germania sia, se vogliamo, un po' più solida. Poi è vero che storicamente credo non sia mai capitato che un europeo abbia vinto il Sud America nella storia dei mondiali. Anche questo ha un peso. Però forse il paradosso è che per questo mondiale costruito in casa non è questa la migliore nazionale brasiliana degli ultimi 30 anni. Allora, ogni squadra io credo che ha dei pregi e qualche difetto. Tutte queste 3-4 squadre che noi diamo come candidate hanno delle difficoltà e hanno chiaramente dei punti dove sono praticamente incontenibili. Il Brasile io lo ritengo una squadra molto completa invece, perché non è così forte come poteva essere per esempio in Corea nel 2002 davanti, o andando più dietro nel 70, eccetera eccetera, davanti, ma c'è uno dei giocatori più forti del mondo che è Neymar, ed è comunque forte nei centrali dietro, nei centrali soprattutto in mezzo al campo. È una squadra abbastanza solida con un allenatore che gli dà una mentalità compatta. Per esempio la Germania, a cui facevamo riferimenti in precedenza, ha dei punti deboli. Per esempio il centravanti della Germania è Klose, tant'è vero che si pensa di giocare senza il centravanti. Per esempio gli manca un giocatore tutto l'anno che era fondamentale per questa squadra, che è Gundogan, che non è mai stato convocato e ha perso Marco Reus. Gli manca il terzino sinistro titolare, che è Smelzer, che è stato sfortunato ed è stato chiamato la sua riserva a Borussia Dortmund, che è Durm. Che qualche problema ha anche la Germania. Tutti dei problemi. Però evidentemente è una squadra che parte da un ciclo che è già stato avviato, che abbiamo visto già arrivare vicino a un traguardo, ad esempio nell'Europeo del 2012, in fondo i tedeschi sono arrivati in semifinale con noi, quindi è sicuramente una squadra da tenere d'occhio. Lele, ti chiedo un minuto di pazienza, perché noi giochiamo questa sera con il Fluminense, ore 22:30 italiane, la racconteremo su Radio 24 in diretta con Dario Ricci. In queste ore hanno giocato in tanti, abbiamo fatto un riassunto vocale perché qualche indicazione dalle ultime amichevoli in terra brasiliana è arrivata. Le nuvole parlano chiaro, è in arrivo un nubifragio, la partita è momentaneamente sospesa. Di Maria che leva Agüero con l'abilitazione, Messi tiene il remate, gol! Que saben los toques que enloquecieron a la defensa de Eslovenia y la definición de pierna derecha de Lionel Messi para marcar el segundo gol al biceleste. Y ya está jugando Silva, la pincha bien al área, el control de Villa, cayéndose pero remata, le ha pegado con la derecha, se pudo ayudar en el control del brazo en la caída, pero evidentemente rápidamente reaccionó desde el suelo y con la pierna derecha, doblete del Guaje en el 87 de partido, lo celebra el equipo español, ganamos 2-0 a Bolivia y hoy también en este amistoso el segundo contra El Salvador, lo marca también David Villa, Juanma. Sono contento di essere arrivato finalmente in Brasile, vi ho lavorato questi 4 anni e questo, compreso questo ultimo periodo di preparazione per il mondiale, e quindi siamo tutti felici di essere qui, io in particolare di essere già qui in Brasile per prepararci bene per la prima gara. Questo era Zaccheroni con il suo Giappone. L'Inghilterra ha pareggiato 0-0 contro l'Honduras tra tuoni e fulmini. Non so se avete visto le immagini, le fotografie impressionanti. Poi c'è l'Argentina con questo giallo, Lele Adani, quello di Messi, anche ieri beccato dalle telecamere a vomitare in campo. È una cosa che oramai gli capita da un paio di anni, non incide sul suo rendimento. Potrebbe anche essere segno però di una forte pressione, perché questo è il mondiale di Leo Messi, c'è poco da girare intorno. Sì, Messi è atteso come Neymar, solo che Neymar è brasiliano, ma un'attesa a livello proprio mondiale equivalente al talento diciamo, brasiliano. Allora, io credo che Messi si differenzi da Maradona, al di là delle capacità tecniche che sono forse i due giocatori, diciamo, della storia del calcio, e da un punto di vista della personalità, nel senso che Messi spesso lo vediamo devastante quando è trascinato, nel senso, quando è supportato, ecco perché nel Barcellona d'oro con i Xavi, Iniesta, i Dani Alves, Messi ti dava qualcosa in più e ti faceva 60 gol all'anno e ti portava trofei. Maradona trascinava, quindi Maradona prendeva i più deboli in squadra, diciamo i giocatori meno forti a livello competitivo, e li faceva diventare campioni attraverso le sue gesta, le sue opere. Quindi siamo in un momento storico dove in campionato di mondiale di calcio Messi ha l'età giusta per prendere per mano la squadra e dimostrare che non difetta in quell'aspetto, dove secondo me, da un punto di vista proprio generale, è molto inferiore a quello che è stato Maradona, per esempio, nei mondiali che ha disputato. Sì, poi Messi ha 27 anni, questo è il suo mondiale, il prossimo avrà 31, ci sarà, credo, a meno di problemi fisici, ci sarà sicuramente, però è evidente che questo è il mondiale della maturità, dove deve in qualche modo confermarsi. È anche un mondiale geograficamente, insomma, in cui l'Argentina non gioca in casa, perché siamo in Brasile, ma vicino alla sua Argentina. C'è chi continua a chiederci perché snobbiamo la Spagna, prima o poi il ciclo d'oro della Spagna deve finire. E poi io, questo è il mio parere, ho visto anche qualche segnale di cedimento importante dall'ossatura del Barcellona, che è una parte importante della nazionale spagnola. Comunque 800 24 00 24, chiamate per parlare, per fare anche i vostri pronostici. Spagna che ha Diego Costa, che avrà problemi Lele con i brasiliani che lo considerano un vero e proprio traditore. Credo che sia quella però che ha fatto l'acquisto più importante, l'acquisto migliore, se vogliamo parlare di acquisto. Insomma, oggi c'era chi faceva il conto, ci sono un'ottantina di giocatori che giocano pur essendo originari di una nazione diversa in questo mondiale. Sì, infatti la Spagna, se tu parli della flessione, diciamo, o della Spagna per quanto riguarda, diciamo, non proprio i primi favori del pronostico, proprio perché di riflesso dalla flessione che ha avuto nell'ultimo anno il Barcellona. Però insomma, Xavi e Iniesta vengono da un paio di stagioni particolari, sicuramente al ribasso rispetto alle vette che hanno toccato. Dicevo che la Spagna però sta ricambiando, arrivavo proprio lì, la Spagna cambia, inserisce Diego Costa, inserisce Coque e di conseguenza cerca di sopperire, inserisce Juan Fran, terzino destro, quindi cominciano a essere dei piccoli ricambi. Non è stato convocato Isco, che arriverà però nelle gestioni successive, quindi comunque una squadra competitiva. La mia finale ideale è Brasile-Spagna, per come la vedo io. Quindi io credo che se poi i vari giocatori che hanno avuto una flessione dicono di stare bene, cominciano a ingranare da un punto di vista fisico e ritrovano la condizione e la fiducia che li ha contraddistinti, la Spagna è difficile andargli a prendere il pallone, con la Spagna si subisce. Sì, sicuramente è una squadra che secondo me ad esempio parte un gradino avanti a noi, se vogliamo provare a fare una griglia di partenza di questo mondiale. Però ritengo, non so, io ritengo che non sarà tra le ultime quattro. Grazie Lele Dani. Grazie. Ciao Lele, grazie. 800 24 00 24, c'è chi dice vince l'Italia in finale contro il Brasile ed è Barbara, c'è invece chi scrive finale Inghilterra contro Germania e vince l'Inghilterra, poi Ulisse che invece tra le quattro sorprese mette sicuramente l'Uruguay. 800 24 00 24, intanto stiamo seguendo anche la finale di Parigi tra Nadal e Djokovic, un set per uno e nel terzo sta comandando Nadal. Convocati. La famiglia Seedorf produce industrialmente calciatori, perché sono due i fratelli e un cugino, tra l'altro due giocano adesso nel Monza e noi li stiamo guardando, osservando per portarli al Milan, e certamente quando Seedorf sarà allenatore del Milan avrà un occhio di riguardo per la sua famiglia. Non ti sopporto più, davvero, davvero. Pensavamo che avesse tutti i requisiti per poter essere un buon allenatore. Adesso, alla fine, dopo l'ultima partita di campionato, riuniremo il consiglio e, come abbiamo sempre fatto per tutte le decisioni, prenderemo una decisione insieme, e io spero che, come ci è capitato tante volte, si possa prendere la buona decisione. Le dirò che non è neppure escluso che possa continuare Seedorf. Allora sai che non ti sopporto! Sopporto più, davvero. Seedorf, cosa si può dire, Presidente? Vediamo al consiglio prossimo quali saranno le soluzioni che troveremo. Intanto questa mattina ci siamo svegliati con sulla prima pagina della Gazzetta la notizia di Kakà, che vuole tornare in Brasile, a San Paolo. Fin qui si era parlato di Kakà che a metà stagione probabilmente sarebbe andato negli Stati Uniti ad Orlando. Ora invece torna in pista l'ipotesi che vada a chiudere la sua carriera a casa, a San Paolo. Chi vivrà vedrà. Di sicuro la prossima sarà una settimana decisiva per il Milan. Arriverà ad esempio questo famoso consiglio d'amministrazione che dovrebbe dire qualcosa sul futuro della panchina, anche se, avete sentito Berlusconi, è tutto già abbastanza chiaro. 800 24 00 24, Stefano da Roma. Stefano, ciao, buonasera. Prego. Non volevo parlare del Milan. No, parla di quello che vuoi. No, oggi raccogliamo pronostici. Beh, io sono tifoso della Lazio, comunque avevo telefonato in particolare per i pronostici. Credo che alla fine, penso che, cioè, mai mondiale parte con degli equilibri così forti, perché vedo tante squadre comunque che sono ben organizzate per fare una buona figura. Non credo che tra queste squadre ci sia l'Italia. Penso che l'unica europea che possa dire la sua, al di là del Belgio che potrebbe essere una sorpresa, sia la classica squadra teutonica, quindi la Germania, mentre vedo l'Argentina favorita insieme al Brasile e all'Uruguay. Sì, l'Italia poi ha quel problemino del quarto di finale. Un disarmo, soprattutto dal punto di vista mentale, psicologico. Ha vinto troppo negli ultimi anni e non credo che abbia la fame per arrivare fino in fondo. Sì, diventa anche una questione statistica alla fine, Stefano. Tra l'altro l'Italia ha quel problemino del tabellone dei quarti di finale, dove se tutto va come deve andare, sia arrivando prima o seconda, se gli altri non si suicidano, dovrebbe avere o la Spagna o il Brasile, e quindi un quarto di finale sulla carta proibitivo o quasi. Poi c'è chi scrive: Sara, io dico Argentina con doppietta di Higuaín in finale contro la Germania. Lo dico, lo spero e lo sogno, perché evidentemente Sara tifa Argentina. Alessandro dalla provincia di Monza. Alessandro, buongiorno. Prego. A tutti, convocato. Volevo condividere con voi una riflessione che ho fatto. Quante possibilità ha realmente l'Italia di passare il girone? Sì. Poche, secondo me poche, però è anche un girone che poi ti apre le porte del paradiso, perché su uscire indenni da un girone così poi ti apre forse la prospettiva di un mondiale da affrontare in maniera diversa da quelli che sono i pensieri che possiamo fare oggi alla vigilia. Prego, Alessandro. Sì, in effetti, perché non lo so, leggendo la stampa o comunque sentendo vari dibattiti in televisione piuttosto che, mi sembra che ci sia un velato ottimismo sul fatto che l'Italia possa, tra virgolette, agevolmente passare il nostro girone. Però in realtà, a mio avviso, questo è un girone veramente, veramente, veramente difficilissimo per noi. Sì, tra l'altro stiamo secondo me sottovalutando l'Uruguay, cioè tutti parliamo della sfida con l'Inghilterra, sì. E mi dicono quelli che ne capiscono che anche la Costa Rica sia una squadra da prendere con le molle, non tanto perché la Costa Rica possa pensare, sperare e sognare di qualificarsi agli ottavi di finale, quanto perché può essere la squadra che fa perdere la qualificazione a una delle big. Attenzione a considerare la Costa Rica come la squadra materasso di questo girone, mi dicono essere una squadra che corre e gioca anche bene a pallone, e nel caldo del Brasile questo potrebbe essere un problema per chiunque le incontra. Grazie Alessandro, siamo arrivati in fondo alla prima ora, sì, ci fermiamo qui. Allora c'è l'angolo delle scommesse alle 18 dopo il GR, arriva anche Pierluigi Pardo, anche lui direttamente dal Brasile. Quote e pronostici. Questa sera scattano i playoff di Serie B con le semifinali e sono due le gare in programma. Allora vediamo le quote SNAI per queste partite. Alle 18 si comincia con la gara del San Nicola di Bari tra Bari e Latina. L'1, la vittoria dei pugliesi, è quotata 1,85, l'X è a 3,30, il 2 invece con la vittoria della Latina è quotato 4,50. Alla Braia di Modena invece si gioca tra Modena e Cesena. Calcio d'inizio per questa partita alle ore 20:30. L'1, la vittoria del Modena, è quotata a 2,10, l'X è a 3, il 2 invece è quotato 3,85. Non si fermano intanto nemmeno le amichevoli premondiali. Questa sera la Francia di Deschamps sfida la Giamaica alle ore 21, francesi favoriti con la quota dell'1 a 1,17, l'X è a 6,50, il 2 invece è quotato 13. Alle 18 infine a Siena si gioca gara 4 tra Siena e Roma con la serie sul 3-0 a favore dei toscani. L'1 è quotato 1,75, l'X è a 2,85, il 2 invece è quotato 5,75. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci a domani. Tutti convocati. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. Allora io lo ricordo, Germania che vince in finale con l'Argentina, poi Brasile, Belgio, Belgio, Brasile, fate voi. 800 24 00 24, stiamo facendo la domenica dei pronostici. A proposito, gli inglesi hanno preso un bulldog di nome Ro, gli hanno messo davanti tre tazzine, una con la bandiera dell'Inghilterra, una con la bandiera italiana, quella in mezzo per il pareggio. Ro è andato dritto ad azzannare i bocconcini della scodella inglese. E quindi il Guardian oggi scrive: il 14 a Manaus, Inghilterra batte Italia, è sicuro, pare che questo bulldog abbia già azzeccato il vincitore del Grand National di Ippica, un tale Pinot de Re, che era quotato 1,25. E quindi bisogna stare attenti, 800 24 00 24. Oggi raccogliamo tutti i vostri pronostici sul mondiale con Giorgio De Luca, poi il 13 luglio faremo i conti. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao Pier, come va? Benissimo. Con tutto il rispetto per i quadrupede, però sembrano il Guardian, che voglio dire, quotidiano laburista, no? Liberal, progressista, sì, il serissimo Guardian, il serissimo Guardian faccia queste robe, fa morire da ridere. Comunque diciamo che noi risponderemo con i nostri quadrupedi, noi abbiamo cani a profusione che sono pronti invece a scommettere sull'Italia. Sì, ma sai che ho scoperto, facendo un po' di ricerca dopo aver visto questo bulldog inglese, che negli anni scorsi c'era anche la ragosta di Bagheria che faceva i pronostici prima delle partite, perché poi tutto è nato dal polpo Paul, 2010, la vittoria della Spagna in Sudafrica, poi c'è stata la mucca Yvonne nell'Europeo del 2012, che però mi dicono non essere stata fortunatissima, poi c'era l'Orango Walter, se vuoi vado avanti, Pier. E poi c'è anche Antonio lo stregone messicano, che pare abbia pronosticato il Brasile vincente in questa Coppa del Mondo, che lo ricordiamo parte giovedì sera Brasile-Croazia ore 22, parte forse senza il Camerun, perché notizia di oggi c'è la rivolta dei giocatori del Camerun che per questioni di premi hanno deciso di chiudersi in un albergo e di non prendere il volo per il Brasile. Guida la rivolta Samuel Eto'o, ma questo è un copione già letto e scritto ogni 4 anni, eh? C'è una nazionale africana che per questioni di premi non parte, poi arriva all'ultimo momento, poi gioca e poi chissà. Mi dai il tuo pronostico, Pier, sul mondiale, non su Italia-Inghilterra, perché oggi è il giorno dei pronostici, lo ricordo, 800-24-00-24. Ad esempio Lele Adani ha detto finale Brasile-Spagna, la tua? Io penso che usciamo difficilmente dal triangolo Brasile-Germania-Spagna. Sì, però devi essere un po' più preciso. Ad esempio io la Spagna non la metto neanche nelle prime 4. Io la metto invece la Spagna. Spero di sbagliarmi, perché mi ha anche un po' rotto le scatole con tutta la festa, però insomma, voglio dire, adesso un po' per uno, no? Come i bambini a scuola, basta, hanno vinto tanto, sarebbe buono. Però... insomma, io che ti devo dire? Allora ti dico Germania, dai, ti dico Germania, per farlo originale, Brasile. Ma che originale, l'abbiamo detto sia io che Carlo Germania. Allora ti dico Spagna. Spagna, allora Pier, tu giochi sulla Spagna che vince questo mondiale. A proposito della Spagna, c'è, lo ricordiamo, l'abbiamo detto, questo piccolo problema per Diego Costa, che è atteso come un vero traditore in Brasile. Lui ieri ha detto, cosa secondo me inconcepibile: io mi sento brasiliano, poi gioco per la Spagna perché Scolari non mi ha mai telefonato. Invece Del Bosque mi ha chiamato, mi ha detto che ero importante, che mi avrebbe convocato, e quindi dopo un paio di partite con la maglia del Brasile io questi mondiali li faccio con la Spagna. Io sono d'accordo con te, Carlo, quando parlate dei nuovi italiani e tutto, però secondo me questa è una situazione al limite dell'inconcepibile. Sì, però ha ragione, voglio dire, ma insomma, onestamente Diego Costa, ma perché deve lo so, è un discorso brutto, poco romantico, però io lo capisco, sinceramente lo capisco. Insomma, un giocatore come lui che viene completamente ignorato da Scolari e che invece viene apprezzato, a questo punto è comunque diventato ormai mezzo spagnolo e quindi gioca alla Spagna. Insomma. Poi è ovvio che se 30 anni fa una cosa del genere sarebbe stato impensabile, e poi si può anche discutere su quale calcio ci piacesse di più. Insomma, io posso anche capire che dal punto di vista del romanticismo, essendo quello del mondiale è una sfida, uno scontro fra popoli, scontro sportivo fra popoli, francamente uno che ti dice che si sente brasiliano dovrebbe giocare con Brasile, però la verità è che lui ti dice che si sente brasiliano anche un po' perché è vero e un po' anche per far capire che il suo problema è unicamente con Pulipon. Sì, e che quindi dopo aver giocato domani i mondiali con la maglia della Spagna, lui giocherebbe anche quelli successivi, magari con quella del Brasile, sperando che restino almeno le regole di oggi che glielo rendono impossibile. Pier, stai lì, si sente malissimo, ma tanto ci abbiamo fatto l'abitudine e andremo avanti tranquilli per tutto il mese, perché sarà insomma una delle cose con cui ci divertiremo in questo mondiale. Stai lì, Pier, che poi ragioniamo anche sull'amichevole di questa sera invece dell'Italia, quella con il Fluminense, perché non ho capito esattamente che cosa dobbiamo attenderci. Secondo me è un po' più di una semplice sgambata, però pare di aver capito che ad esempio Prandelli dopo la partita non parlerà, forse per evitare qualche domanda imbarazzante se non dovesse andare benissimo. Tutti convocati. Corsa difesa è vero, è una cosa che ne abbiamo parlato anche fra di noi e sicuramente è un aspetto da migliorare. Credo che sia limitativo parlare di difesa in sé, perché come quando non prendi gol non sono certo i difensori e basta che aiutano, ma è proprio la fase difensiva della squadra che secondo me ha perso un po' di intensità e distanze durante i 90 minuti. Alla fine è una nostra caratteristica, lo è sempre stata negli anni. Diciamo che abbiamo bisogno di carburare un po', e quando arrivano le manifestazioni per ora non abbiamo mai fallito, quindi la speranza è che sia ancora così, e sicuramente siamo meglio di quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite. Andrea, come ho detto prima, difficilmente riesce a trovarti male, perché comunque è un giocatore che gli piace giocare a calcio, uno che vede la giocata sempre prima degli altri, e quindi, diciamo, quando dà la palla a lui, come si dice, la mette in banca, quindi sicuramente non è difficile giocare con uno come lui. Mi aspetto la continuità che sta avendo in questi giorni, quando si è presentato a una concentrazione massimale, ha una grande attenzione in tutti i particolari, tutti i giocatori riuscissero ad avere questa continuità, poi nell'insieme delle cose possiamo essere ancora più forti. Come dicevo all'inizio dell'avventura, ognuno di noi non deve pensare di essere un protagonista, ma deve essere un interprete di qualcosa che poi ci può far diventare una squadra vera in tutti i sensi. E lui deve fare lo stesso, non deve pensare di risolvere i problemi della nazionale, non deve pensare di caricarsi sulle spalle tutti i problemi della nazionale, perché avremmo ulteriori problemi. Lui deve fare il suo, deve fare il suo. Oh, Pradelli che sta tenendo Balotelli lucidato per il debutto di sabato notte contro l'Inghilterra. Anche oggi inizia l'Italia 2, potrebbe vedersi qualcosa, forse Pierre, nell'ultima mezz'ora, qualcosa di molto simile alla nazionale che poi giocherà da titolare contro l'Inghilterra, almeno mi pare di aver capito così leggendo i giornali italiani oggi. Sì, ma io penso che si sappia già qual è la squadra giocherà contro l'Inghilterra, una punta sola. Che sarà Balotelli. Che sarà Balotelli, 5 centrocampisti, Cassano primo cambio. E questo è la mia, insomma, questo credo sia il piano che è in testa in questo momento Pradelli, anche se l'altro giorno Pradelli ha scherzato sul fatto che se noi non abbiamo capito il modulo, allora vuol dire che loro sono sulla buona strada. Secondo me, la verità è che non voglio essere cattivo, non è che non l'ha capito neanche lui, è che è ancora giustamente, legittimamente in dubbio fra soluzioni diverse, fra esperimenti diversi. Insomma, io credo che non sia ancora al 100% convinto di una soluzione piuttosto che di un'altra. Rispetto all'avvicinamento all'Europeo del 2012 è stata sicuramente più complicata questa gestazione, ma non è detto poi che sarà meno vincente. Sì, non è consolante a meno di una settimana dall'avvio del mondiale. No, non è consolante, ma non è neanche preoccupantissimo. Insomma, io ho abbastanza fiducia, ti dico la verità, ho abbastanza fiducia, perché credo che comunque poi le soluzioni ce l'abbiamo. Sì, sicuramente abbiamo una qualità che forse in passato raramente abbiamo avuto, soprattutto in mezzo al campo. Abbiamo anche tante incognite, la prima legata a Balotelli, abbiamo sentito prima Prandelli parlare di Balotelli. La verità è che poi siamo appesi a che cosa Balotelli riuscirà a spremere in questo suo mese mondiale, perché se lui troverà profondità, qualità, gol, maturità, continuità di rendimento, probabilmente saremo una nazionale che potrà correre come è stato nel 2012 all'Europeo. Dovesse fare, diciamo la verità, Pierre, come in questa stagione con il Milan, probabilmente non basterebbe nessun piano tattico a Prandelli per dare poi un senso di compiutezza a questa nazionale. Però sai chi lo chiediamo anche, Pierre? Ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Oh DJ, buon pomeriggio a voi, ciao Pierre. Ti piace o no questa nazionale? Prego. Aspetta. Io vorrei subito fare il momento Salvemini. Chiedi il momento Salvemini. Poi sta giocando il Bari adesso. Allora facciamo. Sì, 0-0, 0-0, 20esimo minuto. Facciamo il momento Salvemini, Antonio. Pur di dubbio, questa è una formazione un po' in incognito. c'è vero la Cremonese? È uguale. È meglio la Bari. La Bari adesso. Sono in una condizione, un entusiasmo, cosa che è una favola quella che è successa in 3 mesi, perché dopo l'autofallimento è cambiato tutto, questa sinergia, questa alchimia tra pubblico e passionale e la squadra, che tecnicamente, tatticamente e fisicamente ha proprio svoltato, come si suol dire. Quindi credo sia la favorita adesso. Sì, peccato ci siano i playoff, Pier, se no portavamo la Bari in nazionale. Cassano c'è già, mancavano gli altri 10, che ne so, magari facevamo un girone migliore, poi vediamo, che ripeto, 800 24 00 24, io invito gli amici da casa a continuare a telefonare, poi ne sentiamo ancora per i loro pronostici. Non è detto che l'Italia debba fermarsi, cerchiamo di essere ottimisti. Antonio, ti piace questa formula del doppio play? Io ho letto oggi sulla Gazzetta, insomma, una tua analisi ottimista, ma con qualche distinguo. Ma vedendo la formazione, questo 4-1-4-1, almeno da quello che si è letto sui giornali, e quello anche che si dovrebbe pensare, visto che De Rossi gioca davanti alla difesa, ci sono dei ruoli abbastanza adattati, perché anche Marchisio sulla sinistra, gli stessi due, diciamo, play che giocano più avanti, si potrebbero trovare anche troppo a ridosso del centrocampo, quindi loro sono abituati sia a Pirlo che Verratti a partire da dietro, a vedere tutto il campo, a smistare, a costruire, a imporre i tempi di gioco, quindi potrebbero, dico io, sulla carta avere dei problemi, sapendo anche che vai a incontrare, in questo caso l'Inghilterra, sono squadre aggressive, magari con le linee corte, quindi potrebbero avere problemi. Normale che il fraseggio dovrebbe essere, diciamo così, a livello tattico, la dinamica e delle azioni di Prandelli, però vedo anche appunto Marchisio, gli stessi due play, diciamo troppo spostati alla sua posizione, l'unico vero di ruolo dovrebbe essere Candreva sulla destra, poi che magari va palla al piede, senza palla, diciamo, come giocatori che possono inserirsi, Marchisio, ma da sinistra è un po' adattato, i terzini dovranno agire in maniera costante, forte, e qui c'è la scelta tra De Sciglio, Abate e Darmian, che ho letto Darmian e ho visto anche in questo campionato si è dimostrato molto molto forte, quindi questi tre hanno gamba, hanno capacità di andare sugli esterni, poi dovrà essere bravo Balotelli, che anche lui come punta d'area di rigore non è mai stato, ama svariare, ama sì, anche se Berlusconi partire. Insiste che è un centravanti che deve giocare dentro l'area di rigore, sì, ma sono 6-7 anni che gioca in questo modo, quindi l'unico vero attaccante d'area di rigore che poteva avere la nazionale è destro, ma Prandelli ha ritenuto non opportuno inserirlo. Poi, come diceva giustamente Pier, ci sono i cambi magari anche abbastanza sicuri, quello di Cassano dovrebbe essere il primo, oppure i giocatori come Immobile, che può fare anche lui la seconda punta, anche lui molto mobile, abbiamo visto quest'anno nel Torino che fa anche le due fasi molto bene, eppure Insigne, che è l'ultimo arrivato, anche lui sulla fascia possono creare quella superiorità numerica, cercare almeno di saltare l'uomo, però è tutto, mi sembra una nazionale più adattata in questo momento, magari Prandelli, come dice anche Pierre, non è forse al 100% sicuro, ci sono ancora 3-4 giorni, stasera può essere anche una partita amichevole di riferimento, in virtù del fatto che gioca anche Cerci, Immobile e Insigne, potrebbero essere giocatori, mi ero dimenticato appunto di Cerci, che in campo lungo, quando c'è da ripartire, hanno gamba, hanno piede, hanno qualità, hanno questa capacità di saltare l'uomo, quindi secondo me ci vuole anche queste caratteristiche, noi ce le abbiamo, speriamo di sfruttarle, di avere un equilibrio di squadra. Sì, intanto abbiamo tirato una guffata mica da ridere alla Bari, 22esimo minuto vince il Latina a Bari, gol di Jefferson, quindi Pier non diciamo più nulla. Sì. Non diciamo più nulla, però. Questa voglio Jackson. Su tre palle. Jackson. Dai, una Modena a fare l'altra, Modena Cesena. Ma chi è che viene in Serie A? Chi è che viene in Serie A alla fine? Pier, fai bravo. La Bari era quella più. La Bari era, ma noi diciamo che adesso. Appunto, poi c'è il ritorno alla Bari, anche fuori casa ha dimostrato, vedi Crotone, vedi anche gli ultimi mesi. Delle vittorie anche magari pur perdendo all'inizio, quindi hanno uno spirito importante, però insomma questo gol dopo 22 minuti non ci voleva, normale. Sì. Torniamo un attimo sulla nazionale, avete l'impressione che ci sia spazio per qualche sorpresa dell'ultimo minuto? Oggi in tanti lo scrivono, ad esempio a proposito di Darmian, attenzione perché gli ultimi giorni di ritiro prima di un debutto mondiale in realtà non sono poi così banali. L'86 che c'ero io purtroppo andò male, fu De Napoli la sorpresa degli ultimi giorni, mi ricordo. De Napoli, Darmian può essere la sorpresa, c'è altro, ad esempio Cerci, Insigne in fondo non doveva essere nei 30, non doveva essere nei 23. Giocato, cioè sono già abbastanza, Darmian sarebbero per la vera sorpresa di questo inizio di mondiale. E quindi, però se uno è bravo perché e se ha le caratteristiche, sta bene fisicamente, in questo senso, cioè, abbiamo di mancini di ruolo ne abbiamo pochissimi, forse nessuno, l'unico era Pasquale, ma non è venuto, non è andato, quindi, e anche De Sciglio, che ha giocato nel Milan a sinistra, però ovviamente sfrutta meglio la fascia destra, anche lui come Abate e anche credo come Darmian. Piera, è vero quello che scrivono oggi alcuni giornali, cioè che nel ritiro dorato di Mangaratiba l'Italia rischia di aver perso un po' di cattiveria agonistica? Bah, non perché, francamente l'Italia la cattiveria agonistica forse non ce l'ha, nel senso che sono 7 partite che non vinciamo, quindi diciamo sì, che però rischia una vigilia un po' troppo protetta, un po' troppo lontana anche insomma dall'ambiente circostante, dalle pressioni, dagli entusiasmi. L'ha detto ieri Chiellini, queste cose qui, a parte i ritiri, sono tutti molto simili, cioè non è che, non mi risulta che nel 2006 diciamo i giocatori che avessero incontrato Mandela o fatto il giro di Soweto, un po' di cose sono state fatte l'anno scorso. Io non mi sembra, noi dobbiamo scrivere un sacco di cose, ragazzi, dai. Sì, dobbiamo riempire paginate di giornali. Pagine e pagine. E ore di trasmissione. Il ritiro, ci sono state un ritiro chiaramente un po' lontano, un po' distante dai problemi del Brasile, dalle favelas, certo, è distante, voglio dire, però è un posto dove questi si allenano e giocano a pallone, insomma, mi sembra tutto sommato che la cosa più importante che devono fare in questo momento la stiano facendo lì, quindi non sarei a fare polemiche su questa roba qua. Credo sinceramente che il problema, cioè, ci può stare, il ragionamento è una squadra che ultimamente ha convinto poco, ecco, su questo non ci sono dubbi, una squadra che ultimamente ha cambiato molto, ha convinto poco, con Prandelli che ha cambiato in corsa molte delle sue convinzioni, perché insomma Insigne sembrava un giocatore chiamato così per caso, Cassano 3 mesi fa ancora sembrava uno che aveva un 0% di possibilità, e poi di a un certo convocato. Punto sembrava quasi un titolare, perché un mese fa invece si parlava probabilmente di Cassano con un'idea diversa, poi dopo è saltato fuori questo nuovo modulo. Antonio, cioè, sì. ti dà l'impressione Prandelli di non aver avuto fin qui le idee chiarissime, o forse gli manca ancora soltanto di fare sintesi? Ma lui l'ha detto, dice ci saranno molti moduli, vedrete sicuramente, non, l'Italia è sempre ben delineata a livello tattico, quindi anche perché ha queste caratteristiche dei giocatori che può fare questi cambi, questi anche in corsa, quindi in questo dobbiamo prepararci tutti, sempre che rimanga, come dicevo prima, un certo equilibrio di squadra. È normale, i giocatori magari si possono anche a volte adattare, però magari uno massimo, ecco, gli altri dovrebbero giocare e sfruttare le proprie caratteristiche. In questo, come dicevo prima, quella formazione mi sembra, tornando al discorso del doppio play, magari un qualcosina da adattato, e quindi magari potrebbe condizionare proprio le caratteristiche di questi due giocatori, che hanno nella qualità, nella visione del gioco, nella velocità di pensiero le loro armi migliori, però potrebbe essere anche un'arma per noi per tenere il possesso palla, per avere il dominio del gioco, e in questo andiamo a vedere anche proprio l'Inghilterra, che anche loro stanno soffrendo molto a livello tattico, a livello fisico, a livello di prestazioni. Io credo abbiano fatto anche un ritiro importante secondo me l'Italia, e questo lo si dovrà vedere nelle partite susseguenti, perché sappiamo, io l'ho anche potuto constatare, che bisogna sempre partire non al massimo per poi crescere, perché sappiamo che la competizione è lunga e dura, e quindi anche le situazioni climatiche potrebbero incidere su questo campionato. Io come sono d'accordo con Pierre, anche perché sono abbastanza fiducioso, perché insomma c'è la possibilità con queste varianti di poter cambiare anche in corsa. In questo Prandelli ha dimostrato nei suoi anni, non soltanto in nazionale ma anche sulla panchina di club, questo adattamento, questa forma camaleontica di poter cambiare in corsa. Grazie Antonio. Grazie a voi, ciao Pierre. Ciao. Volevo dire una cosa sul 4-5-1. È chiaro che nel momento Prandelli ha detto con una punta sola rischiamo di meno, siamo più protetti, con due attaccanti costruiamo di più, però siamo un po' più squilibrati, per cui se come sembra si andrà verso una punta sola è abbastanza ovvio che la scelta sarà stata una scelta di prudenza. Una scelta di prudenza è figlia probabilmente del non fidarsi ancora completamente del tutto dell'intensità che questa squadra ha. L'ha detto anche ieri Chiellini in conferenza stampa, per cui che l'Italia si sia presentata a questo mondiale schiscia, come dicono a Milano, no? Cioè con l'idea che dobbiamo stare molto tranquilli, prudenti, dobbiamo fare il nostro senza strafare, perché non siamo in questo momento ancora nelle condizioni di forma e di intensità per poter fare un po' gli sboroni, ecco, tanto per essere molto radiofonici, questo è evidente, insomma, mi sembra che sia proprio il punto di partenza. È comunque una presa di coscienza che può essere importante, no? Perché essere consapevoli dei propri limiti può portarti a fare un buon mondiale, però l'idea è questa, è chiaro che tu fai 4-5-1 perché in questo momento vuoi partire dalle basi, le tue basi sono una difesa che deve tornare a essere solida, ieri Chiellini l'ha detto in conferenza che deve sì, che servono equilibri che in questo momento si sono un po' persi, un centrocampo con dei centrocampisti che si inseriscono e Balotelli che ti deve fare la differenza, è chiaro che per il potenziale che tu hai questa squadra deve giocare con due punte in un mondo ideale, no? Quando sarà in forma, quando sarà in condizione, devi giocare con due punte perché hai il talento da tirar fuori per poter giocare con due punte. In questo momento forse Prandelli non si fida. Sì, forse non se lo può permettere. Intanto voglio sapere anche cosa ne pensate da casa. 800 24 00 24, ci sono già un paio di amici, Antonio da Foggia, Luca da Roma. Vi chiedo un minuto di pazienza, state lì. Convocati. Essa bola vai rolar, dum dum, é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. Oh, Bari sempre sotto 1-0 contro Latina, non era gol di Jefferson ma autogol di Polenta, quindi Bari 0 Latina 1, mancano una decina di minuti alla fine del primo tempo. Poi c'è anche la finale del Roland Garros maschile con Nadal che è avanti 2-7-1, 4 pari nel quarto set, Nadal sta servendo 40-30. Partita bellissima e lunghissima. Oggi le nostre due, Rani e Vinci, hanno invece perso la finale del doppio femminile. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo da Rio de Janeiro, c'è Antonio da Foggia. Antonio. Sì, buonasera a tutti. Niente, una nota così personale, che questo sarà il mio primo mondiale visto alla radio, visto che per problemi sanitari sono costretto a letto. Io vedo troppo pessimismo, troppa sfiducia nella nazionale italiana. Secondo me arriveremo tranquillamente nei primi quattro posti. Sai perché? Perché noi siamo troppo scalzi, troppo furbi, troppo opportunisti. Casomai la squadra avversaria giocherà per 89 minuti, noi facciamo il golletto e vinciamo la partita. Il golletto, sì, lo stellone che spesso ci ha accompagnato. Esatto, le varie partite, sì, che abbiamo sempre vinto in questo modo. Sì, segnalando quindi, Antonio, che arrivare nelle prime quattro tranquillamente, Pier, se non sbaglio, tabellone alla mano, significa far fuori o Brasile o Spagna nei quarti di finale. Già questa sarebbe un'impresa che vale un mondiale. Pier, no, c'è qualche problema di collegamento con il Brasile. Antonio, segnalando, c'è chi scrive addirittura: speriamo che finisca come con la Corea nel 66, sai che goduria, perché poi nel mese dei mondiali ci sono anche quelli che tifano contro a prescindere. Fortunatamente non Antonio da Foggia, grazie Antonio. Luca da Roma, Luca. Ciao, buongiorno. Chiamavo perché non volevo dire che non ero d'accordo con quello che ha detto Pierluigi Pardo, sì, con un tifoso di Pardo. Non è l'anno della Spagna. Il Barcellona ci ha dimostrato che non è l'anno della Spagna. La Germania arriva, per parlare delle prime quattro di cui si parla, la Germania arriverà in fondo sicuramente come sempre, ma non vincerà il mondiale, semifinale. Il Brasile è troppo scontato, troppe pressioni. E quindi chi lo vince questo mondiale, Luca, che si sente malissimo? E quindi lo vince l'Argentina, squadra fortissima che si permette di lasciare Tevez a casa. Nessuno ne parla, è una squadra sudamericana, avranno gli stati pieni e vincerà la sì, Argentina. Sì, ed è una squadra fortissima l'Argentina, Pier, che però in porta ha un portiere che noi conosciamo e che certamente fortissimo non è, ha una difesa che in gran parte conosciamo in Italia e in Europa e che certamente fortissima non è. Dicevamo prima, Argentina e Brasile sono due meravigliose squadre incomplete. Ma sì, negli ultimi anni il calcio europeo si è stato nettamente superiore al calcio sudamericano, lo testimonia il risultato degli ultimi mondiali 2006-2010, c'è stato un dominio assoluto del calcio europeo a livello di club, anche a parte alcune cose strane tipo la sconfitta del Chelsea un anno e mezzo fa in finale del mondiale per club. Comunque No, io penso in generale che appunto l'Argentina per me è al quarto posto del mio ranking personale, cioè secondo me è un filo dietro alle prime tre che sono Spagna, Brasile e Germania, ed è avanti a tutte le altre. È una squadra fortissima dal punto di vista offensivo, è chiaro che Tevez fuori fa effetto, è altrettanto vero però che dietro ha delle difficoltà enormi, per cui non lo so, mi sembra poco equilibrata. Poi la verità è che una competizione di questo tipo, mentre sulle 38 partite possiamo fare tutti i ragionamenti che vuoi, no? Il prossimo è il campionato, mi darai atto, io ti ho detto Juve prima che cominciasse e te l'ho sempre detto anche quando era sotto dopo la sconfitta di Firenze, perché un campionato è più facilmente prevedibile, ci sono dei valori numerici di un certo tipo. Quindi, sì, qui si tratta di azzeccare un mese, sette partite. Sì, ed è il motivo per il quale secondo me noi non siamo tagliati fuori, poi magari usciremo nel girone, ma io non posso escludere nulla, perché secondo me l'Italia può giocarsela con chi gli pare. L'Italia se la può giocare, l'ha dimostrato anche l'anno scorso in Confederation Cup. Ma l'ha dimostrato anche all'Europeo. All'Europeo abbiamo fatto fuori l'Inghilterra, abbiamo fatto fuori la Germania. La Germania era certamente sulla carta superiore a noi, anche già la Germania dell'Europeo. In finale siamo andati noi, quindi certamente sulle sette partite ha ragione chi scrive anche al 349-238-6666. Guai a sottovalutare l'Italia, perché l'Italia resta una nazionale che potrà arrivare fino in fondo. Giovanni, abbiamo vinto i nostri mondiali in due edizioni nelle quali veramente non nessuno ci dava una lira. Sì, però con due percorsi diversi, perché nel 2006 obiettivamente abbiamo avuto una seconda fase fino alla semifinale, che poi è stato il nostro vero capolavoro, un percorso molto più semplice, ad esempio, di quello che potremmo doverci trovare ad affrontare quest'anno a partire poi dai quarti di finale, per non parlare del girone. L'82. La squadra dell'82, adesso spero che Bruno Conti, Paolo Rossi e compagni all'ascolto non mi querelleranno, è una squadra che ha fatto quattro partite, bisogna dirle le cose come stanno. Quella nazionale lì veniva da una situazione piuttosto difficile, aveva fallito gli europei del 1980 in casa, aveva avuto delle qualificazioni così così, si qualifica, fra tre pareggi passa al turno veramente con per il rotto della cuffia. Fa quattro partite incredibili, realmente incredibili, contro Brasile, Argentina, Polonia e Germania, quindi batte tutto il meglio che c'era, e poi torna a sprofondare. Cioè noi non ci qualifichiamo per l'Europeo dell'84, non ci qualifichiamo nel girone, facciamo delle figure orrende fin dalla prima. Sì, il mondiale si può vincere anche giocando bene solo quel mese lì, e poi chiudere quella parentesi. Sì, quest'anno l'Italia ne serve qualcuna in più, perché ripeto, il girone a cui ci siamo condannati non vincendo una di quelle partite che noi abbiamo ritenuto un'amichevole, quella con l'Armenia, ma che amichevole non era e che ci è costato il nono posto nel ranking FIFA. Quindi la verità è che poi noi quest'anno ce la giochiamo già da sabato, Pierre, Italia-Inghilterra. Sì, sicuramente, però il paradosso è che tu potresti vincere il mondiale pareggiando tutte le partite. Adesso sto estremizzando il concetto, è chiaro che non è così. Però è una competizione molto, veramente molto liquida, nella quale il passaggio del turno delle volte dipende veramente da alcuni piccoli dettagli. Insomma, anche la Francia che arrivò in finale con noi nel 2006 aveva faticato molto, la Spagna che ha vinto il mondiale nel 2010 ha rischiato di uscire pesantemente contro il Portogallo, contro Paraguay, il famoso rigore parato da Casiglia. Cioè, siamo veramente nell'ambito dell'episodio, della partita secca, per cui è importantissimo la costruzione di un certo tipo di spirito di squadra, e certamente è importante avere dei giocatori che ti fanno la differenza, e noi da questo punto di vista non siamo messi male, perché noi comunque abbiamo gente con degli attributi piuttosto grossi, insomma, senza Pirlo e Buffon sono due giocatori dei quali io mi fido. Della possibilità che Balotelli e Cassano possano esplodere. Ecco, io lì mi fido un po' meno. Pirlo e Buffon sono due, rispetto alla solidità di Pirlo e Buffon, sono due scommesse, però Balotelli e Cassano comunque è buono averci. Sì, poi bisogna dire la verità, Balotelli e Cassano, cioè noi ci fidiamo meno magari perché poi li conosciamo per averli frequentati sui campi italiani nella quotidianità. La verità è che nel 2012, poi dopo, quando sono stati alle prese con la prova dell'Europeo, hanno risposto, e hanno risposto nel migliore dei modi. C'è Augusto da Genova. Augusto? Buonasera. Prego. Grazie dell'invito, ma il mio pronostico è un po' controtendenza. Io vedo più una squadra, diciamo, di seconda fascia come l'Uruguay, che ha un allenatore che io conosco. Io sono cagliaritano, l'ho conosciuto a Cagliari, Tabarez. È un grande maestro in tutti i sensi e c'ha dei giocatori anche scaltri, come dite voi, come siamo anche noi italiani, che possono sfruttare piccole occasioni per ottenere grandi risultati. Sì, poi davanti hanno una qualità che hanno in pochi, Pier, Cavani, Suarez, anche sì. Forlan, che è un giocatore evidentemente a fine carriera, ma è un giocatore che sul mese, sulle 4, sulle 5 partite ha dei colpi ancora importanti. Intanto Nadal ha vinto Roland Garros, Nadal ha vinto Roland Garros in 4 set, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4, questo risultato con cui ha battuto Djokovic. Altre buone notizie? No, il Bari è sempre sotto 1-0, non so, che buone notizie vuoi? No, io sono federeriano, quindi... No, ma Federer è a casa da un pezzo con le gemelline. No, lo so, però voglio dire, sono federeriano, quindi poi sono più per Djokovic, diciamo Nadal arriva verso in questo ideale posto, Invece ha vinto Nadal. Poi sulla terra ci sta sempre. No, io penso che innanzitutto saluto l'amico sardo Viva Casteddu, sempre comunque, e credo che l'Uruguay sia una delle outsider. Penso che ci sia una grande incognita che è legata a Suarez. Suarez è un giocatore talmente importante, talmente geniale, che bisogna capire veramente cosa potrà dare. Insomma, poi il resto, la squadra è molto forte, è molto collaudata, ha delle qualità incredibili, ha dimostrato di avere anche dei giocatori. Godin, al di là dell'exploit di due gol in finale di Champions e nell'ultima giornata col Barcellona in campionato, è un giocatore che ha fatto una stagione incredibile. Sì, a maggior ragione il nostro girone è particolarmente complicato, non è solo l'Inghilterra, siamo comunque anche l'Italia, non dimentichiamocela mai questa cosa. Noi abbiamo sempre questa cosa del profilo basso, che qua fanno i proclami e fanno le battute in conferenza stampa sul fatto che sicuramente diventeranno esacampioni, no? Se vinceranno per la sesta volta il mondiale. Io dico che giochiamocela, insomma, giochiamocela. Io non mi sento francamente inferiore a nessuno nella competizione secca. Non credo che l'Italia parta battuta con nessuno. È chiaro che su un campionato lungo di 38 partite ci sono squadre che hanno più talento di noi, e in un eventuale campionato tipo Serie A noi arriveremmo probabilmente a sesti o settimi tra le 32 squadre del mondiale. Non arriveremo. Sì, però fortunatamente si gioca, abbiamo detto, in un mese, anche meno di un mese, anche meno di un mese. Ciao Pier, a domani. Ciao. Tutti convocati. Leggo un'assa che è appena stata battuta, la scritta "Benvenuti futuri campioni" che campeggiava all'ingresso del centro sportivo dell'Atletico Mineiro, la Cidade de Galo a Belo Horizonte, ritiro dell'Argentina durante i mondiali, è stata tolta dopo l'ondata di proteste che c'è stata tra i tifosi sia brasiliani che argentini. Prima se l'erano presa i brasiliani perché vedono come sciagura l'eventualità che l'Argentina vinca il mondiale in casa loro, e poi se la sono presa anche i tifosi dell'Argentina, che dietro quella scritta "Benvenuti futuri campioni" vedevano forse una gufata, ma di quelle potenti. Giuliano da Treviso. Giuliano, buongiorno. Prego. Sì, io volevo dire che a me sembra che il modulo scelto da Prandelli sia quasi definitivo, nel senso che con due piedi buoni che abbiamo tra Verratti e Pirlo, che sanno lanciare, e le profondità che hanno Marchisio e Candreva, e per me è un gioco che ci sta. Un'altra cosa volevo dire, che Insigne, se non si incarta, è qualcosa di incredibile quel ragazzo lì. Sì. E poi che tenga conto Portogallo. Sì, Portogallo, poi bisogna vedere Cristiano Ronaldo in che condizioni è, perché certo, ha questo problema al tendine rotuleo, e quindi insomma è un problema che può essere anche limitante, perché poi dopo bisogna essere al top in questo mese ed evidentemente Cristiano Ronaldo ha finito la stagione non al top. Antonio da Taranto. Antonio, buonasera. Buonasera. Salve, io volevo fare un'osservazione, parlare un po' di Cerci. Secondo me Cerci è una chiave fondamentale in questo mondiale, bisognerebbe sfruttare tantissimo la sua esplosività e creare un finto attacco senza centravanti. Io ci metterei Candreva, Cerci con Cassano finta punta o Balotelli finta punta nella formazione titolare. Sì, ho l'impressione, Antonio, che in realtà Cerci sia in Brasile non per il 4-1-4-1 che vedremo anche questa sera, ma per qualcosa di diverso. Nel primo tempo verrà provato, mi sembra, una specie di 4-3-3. Ecco, questa potrebbe, ad esempio, Antonio, essere un'alternativa tattica anche in corso di partita importante per Prandelli. Abbiamo ancora 4 minuti, 4, possiamo parlare di Formula 1. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buonasera, ciao Umberto. Buonasera, buonasera a tutti. Non attendiamo buone notizie da Montreal per la Ferrari? No, non le attendiamo, ed era un po' l'ultimo appello, perché si diceva che in Canada sarebbe arrivata una Ferrari leggermente rivista per quello che consentono i regolamenti, e però direi che i risultati delle qualifiche hanno detto che la Ferrari, pur migliorata, è ancora molto molto indietro, e non soltanto rispetto alla Mercedes. Quindi forse conviene fare quello che da un po' di tempo io vado predicando, pensare all'anno prossimo, cercando di evitare di fare figuracce anche nel 2015. Sì, mi sembra che Alonso sia già proiettato con la testa al 2015, ho letto in settimana una sua dichiarazione, l'importante è non sbagliare ancora macchina, dichiarazione che suona anche come una sorta di sentenza per il lavoro che è stato fatto in questi anni, non solo quest'anno mi sembra, dalla Ferrari. Sai, bene o male, negli ultimi anni... Poi Alonso è riuscito a restare in lotta, a parte l'anno scorso, per il mondiale fino all'ultima gara. L'anno scorso no, quest'anno ancora meno, però almeno chiudere l'anno con una vittoria era possibile. Quest'anno io vedo difficile che la Ferrari, a meno che di gare particolari, possa vincere un gran premio, e quindi sarebbe comunque una stagione disastrosa. Il problema vero è che non è soltanto un problema di progettazione di macchina, come era magari l'anno scorso, è un problema anche di motore, di quella che adesso viene chiamata la power unit, in cui la Ferrari è molto indietro, e qui il gap diventa preoccupante, perché mentre Mercedes, Renault e probabilmente anche la Honda, che entrerà l'anno prossimo, hanno una cultura dell'ibrido molto sviluppata, Ferrari e il gruppo Fiat sono ancora molto indietro da questo punto. Sì, quindi questa è una crisi che in realtà potrebbe non essere finita con la fine di questo mondiale. La paura è questa. Invece questa sera vedremo l'ennesimo capitolo della saga tutta interna alla Mercedes, Rosberg contro Hamilton. Divertire. Sì, mi pare che Hamilton la stia soffrendo abbastanza. Io qui però avevo il pole, era la sua pista, è una pista che si è data molto bene alle sue caratteristiche, e io pensavo che lui volesse vendicare alla grande quello che era capitato a Monaco, invece gli ha fatto due errorini nel suo giro lanciato, e alla fine c'è davanti Rosberg, per cui la battaglia vera almeno ci serve a non farci addormentare durante i Gran Premi. Sì, nei giochi mentali l'impressione è che sia però in questo momento molto più solido Rosberg di quando lo sia Hamilton. Poi in questo momento la classifica dice 122 punti Rosberg, 118 Hamilton, situazione però che sta consentendo anche alla Mercedes fortunatamente di non dare ordine di scuderia, e andando avanti così il dominio dei tedeschi, speriamo che sia così fino alla fine della stagione, altrimenti diventa davvero dura arrivare fino a novembre. Grazie Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buona serata. Grazie Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo finito. Allora, io vi ricordo che dal prossimo weekend raddoppiamo, siamo in onda anche il sabato dalle 17 alle 18 per raccontarvi tutto del mondiale. Tutti i convocati invece torna domani dopo il GR delle 14. Un particolare ringraziamento a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, a Roby Scaltritti e Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo sabato prossimo alle 17.